È stata bella e emozionante e un momento di calma, di serenità e di tranquillità. E ho sentito tanti bei rumori e basta. È stato molto emozionante ammirare l'acqua per un bel po' di tempo, perché c'era calma e silenzio e si poteva ammirare.